Il gastronauta di Davide Paolini. Bene, oggi faremo una trasmissione un po' particolare perché qualcuno dirà: ma guarda cosa si sono inventati. Mangiare con le mani, sì, proprio così, mangiare con le mani, perché il Galateo mette al bando solo per alcune cose appunto le mani. Noi le vogliamo ritirare fuori, perché il tatto è molto molto importante per la nostra conoscenza, per il primo approccio con il cibo, e credo che lo sia anche per quando si è piccoli, da bambini. Cioè, toccare il cibo credo che sia veramente molto ma molto importante. Ho letto una ricerca dell'Università di Nottingham in Inghilterra che sostiene, appunto, in base delle ricerche fatte su un certo numero di bambini, che coloro che toccano il cibo subito da bambini per lungo tempo con le mani sono meno portati all'obesità. Bene, queste sono ricerche molte volte che lasciano il tempo che trova, perché magari ne arrivano altre che contraddicono questo, però io credo che il tatto sia molto importante, perché ci fa conoscere dopo la vista immediatamente il cibo e ci dà, per così dire, un certo rapporto con il cibo. Poi il tatto è importantissimo, sentire, toccare, io credo che sia una delle cose più importanti, anche se appunto con il cibo viene sempre relegato sicuramente dopo l'olfatto e dopo il gusto. Bene, io voglio cominciare a parlare di questo argomento con Raffaele Morelli, noto psichiatra, psicoterapeuta, direttore della rivista Rizza Psicomatica, di cui tra l'altro vorrei anche citare un libro bellissimo che ha scritto, che è Dimagrire senza dieta, di cui magari in altre trasmissioni ne parleremo ancora. Buongiorno Raffaele. Buongiorno a voi, buongiorno a te e ai ascoltatori. Il tatto che importanza ha nella nostra vita? Il tatto è tutto, il tatto è decisivo, il tatto è collegato alle aree più antiche del cervello. E il gusto, in fondo, che cos'è il gusto? Un tatto interno, no? Toccare le cose da dentro la bocca. Abbiamo iniziato con il latte e poi tocchiamo ogni volta che mangiamo, imboccare, imboccarsi, far rivivere al cervello la parte più antica e quindi anche la parte dove si rigenera la cellula nervosa. Quindi mangiare con le mani è una cosa, come hai detto tu, importantissima. Ecco, io ho questa sensazione che il tatto sia un po' come una lampadina che si accende prima di mangiare. Tocchi il cibo e si accende una lampadina nel nostro cervello che preclude poi al gusto e all'olfatto, cioè anzi all'olfatto poi al gusto. Cioè un qualcosa prima, diciamo che è la prima sensazione che si trova. Se non è piacevole, io credo che già ci sia il cervello che respinge quel cibo. Ma basta pensare questo, no? Che quando siamo in un'atmosfera sgradevole, anche il cibo diventa sgradevole. E quando noi, una volta, i vecchi contadini nelle nostre case si teneva la frutta e la verdura sul tavolo, no? E si sentiva l'odore, passavi vicino a toccare, sentivi la rugosità della pesca, sentivi la morbidezza della pera, della mela, no? Cioè, in qualche modo noi associavamo il cibo al toccare. Ecco, gli innamorati si imboccano, l'affetto era sempre collegato all'essere imboccato dalla mamma che ci raccontava una favola quando non volevamo mangiare. Quindi tatto, parole, carezze, solo il cibo. Quindi quando si dice nutrimento affettivo si intende qualcuno che ti accarezza più di tutto e prima di tutto, si intendono parole che ti accarezzano, e così si deve intendere il mangiare con le mani, no? Pensa, quando due innamorati escono una sera a cena, le mani si incontrano, il tatto si incontra, il gusto si incontra, assaggia, no? E questo per dire come la tattilità sia veramente una parte fondamentale per lo sviluppo del cervello, ma anche per il nostro sentirci amati. Bene, quindi tu dici in questo caso il cibo diventa anche un qualcosa di affettivo, cioè di affetto, sembra quasi appunto che si trasformi da un qualcosa di gola a un qualcosa di più, al calore, cioè da calore, perché in fondo toccare il cibo da calore. Bene, io ti ringrazio Raffaele, poi ci risentiremo per il tuo splendido libro e parleremo di si mangia con la testa o con la panza, lo faremo prossimamente. Grazie Raffaele Morelli, psichiatra e psicoterapeuta, a presto. Grazie a voi, un abbraccio grosso. Continuiamo, ma ora andiamo immediatamente da un psicoterapeuta, andiamo a uno chef sicuramente che ha messo in pratica, è stato uno dei primi addirittura con moltissimi piatti, il mangiare con le mani. Buongiorno Massimiliano Laimo. Buongiorno a tutti. Max, come sei arrivato? Tu proponi una serie di piatti, 4 o 5, sì. Ne hai già proposti, da mangiare con le mani. come mai? Cosa hai pensato quando, diciamo, hai pensato di mettere in pratica questa cosa e di metterlo nel menù, questi piatti? Ma guarda, intanto se tu osservi i bambini, il primo istinto, il primo rimbalzo psicologico che possono avere loro è proprio di toccare il cibo, e va assolutamente lasciato fare questo libero sfogo, perché è la prima congiunzione a quello che può essere un atto conoscitivo. E noi abbiamo cercato di ripristinare, come in molti popoli avviene, questo tipo di linguaggio che parte dal corpo, tocca la materia, un po' toglie il limite della distanza con la posata. Ovviamente questo si deve fare con estrema eleganza, con la possibilità di poter sfruttare tutte le informazioni che ci arrivano. Insomma, mangiare una carne toccandola con le mani ti dà una serie di messaggi che sono legati alla porosità, all'umidità, alla temperatura, per cui si innescano dei meccanismi di stimolazione salivare, non solo percettiva, che poi si legano con altri aspetti che possono essere l'uso dei profumi. Noi abbiamo dei piatti che, per esempio, cerchiamo di sfruttare anche l'ascolto, per cui serviamo questo piatto che si chiama Sguardo Interiore, dove viene fornito al cliente un paio di tappi per le orecchie e uno specchio, un piatto che abbiamo fatto per la Biennale Venezia 2011, e al di là dell'aspetto giocoso, in realtà è un po' come quando parli con le orecchie tappate, non riconosci più te stesso, perché l'ascolto in questo caso parte proprio dall'interno, è una conduzione ossea che ci dà il messaggio uditivo in questo caso, e è tutta una sollecitazione psicologica che poi rimanda a degli aspetti anche molto intimi. Ecco, io voglio parlare anche di un altro tuo piatto, perché dove il tatto addirittura gioca a 360 gradi, ed è il tessitura al cioccolato. Cioè, tu fornisci una serie di tessuti che si devono toccare mentre si mangia questo cioccolato, quindi diciamo il tatto è riportato contemporaneamente al gusto. Sì, il principio è sempre lo stesso, la sinestesia, per cui far conciliare aspetti percettivi, tattili, gustativi, ma anche visivi, olfattivi, più o meno sulla stessa direzione, come se volessimo osservare una parte dell'ingrediente al microscopio. Cioè, poniamo molta attenzione, che so io, su un velluto molto morbido, colore un marroncino tenue, con una struttura di un cioccolato che in bocca, perché poi anche in bocca abbiamo degli aspetti tattili importanti che vengono riconosciuti. Per cui la tattilità in bocca deve coincidere con la tattilità manuale. Stessa bollicina, la bollicina di uno champagne o di un Franciacorta italiano o di un Prosecco, di qualsiasi bollicina, anche di una Coca-Cola, viene riconosciuta attraverso un meccanismo che si chiama TANG, per cui questa dimensione della bolla comunque viene riconosciuta dal cervello, magari in maniera inconscia da parte nostra, ma esiste una tattilità in bocca. Ecco, volevo chiederti questo, diciamo, questi tessuti forniti, i cannelloni croccanti mangiati con le mani, fish and chips alla veneziana, come reagisce il cliente? Ma tendenzialmente si divertono molto, e poi noi comunque diamo l'opportunità dell'utilizzo della posata, non sono forzature, ma anche alle persone che tendenzialmente allontanano e hanno magari con il cibo un rapporto un po' più formale, al primo boccone cambiano immediatamente idea, perché è un qualcosa che abbiamo dentro, una necessità che abbiamo, quella proprio di vivere intimamente la tavola, è una possibilità altra di riconciliarsi con se stessi, con il mondo, per cui il fatto di divertirsi è uno dei principi fondamentali che applichiamo al ristorante, quello di star bene, uno dei più bei complimenti che ho avuto alle calande, proprio quello che a fine pasto questa ragazza mi dice: caspita, mi sentivo come a casa, volevo togliermi le scarpe. Noi lavoriamo molto sulla sensorialità, ma per poi arrivare in maniera più rapida a quello che è la parte più intangibile di un pasto. Bene, grazie Massimiliano Laima, le calandre di Sarmeola di Rubano. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, cari radioascoltatori, mangiare con le mani. Bene, questa trasmissione mette al bando la forchetta, quella forchetta che Caterina de' Medici introdusse nella raffinata corte di Francia, e ci allineiamo con la Chiesa, quando nel 1100 condannò Teodora, sposa del doge Domenico Selvo, perché durante il matrimonio introdusse la forchetta. Quindi da oggi bando la forchetta da questa trasmissione. Bene, avrete capito che continuiamo a parlare di mangiare con le mani. Ora abbiamo con noi uno chef molto bravo e molto, diciamo, molto deciso anche su questi temi. Buongiorno Paolo Priore, lo Priore. Sì, buongiorno. Del canto dell'Hotel La Certosa di Maggiano. Paolo, tu hai un piatto in carta che è l'insalata di alghe, erbe aromatiche e radici, che si mangia con le mani, ovviamente. Sì, si mangia con le mani. Ecco, come sei arrivato a questo? Ma sono arrivato perché si ha un contatto diretto tra l'occhio, la persona, la bocca, e la mano è il proseguo dell'occhio, nel senso che con la forchetta comunque si andava comunque a prendere più erbe, e invece con la mano uno può scegliersi le sue erbe, ecco. È un proseguo della persona, se vogliamo. Ecco, io ho avuto un po' l'impressione che fosse anche come un racconto, cioè dello svolgimento che si ha per, diciamo, comporre questa ricetta, cioè sei in un campo, con le mani raccogli queste cose, e quindi di dare questa impressione. Esatto, no? Questo è anche la passeggiata che comunque mi ricorda qui, Strada di Certosa, nel senso che le erbe crescono spontanee e passeggiando uno può raccogliersele e mangiarsele. Questo è anche uno dei motivi. Ecco, ma diciamo, tu come vedi il tatto nella cucina? Cioè, quale importanza ha il tatto nella tua cucina, anche in particolare nei tuoi piatti? Ma quando pensi, noi cuochi tocchiamo quasi tutto con le mani. È vero, giusto. Tante si fanno mettere i guanti e tutto quanto, comunque è un lavoro ancora manuale. Col tatto sentiamo l'untuosità della carne, la consistenza del pesce, l'umidità delle verdure, per cui per noi è un elemento importante, perché non trasportarlo anche a tavola? Forse un po' più primitivi preferisco, ecco, adesso, nel senso che siamo andati talmente in là con la cucina e con la ristorazione che un passo indietro lo dobbiamo fare un po' tutti. Bene, ecco, rimani con noi, perché abbiamo anche Sabrina Carollo. Buongiorno Sabrina. Buongiorno. Giornalista e autrice del libro Galateo per tutte le occasioni. E Sabrina, io le faccio questa domanda: secondo il Galateo ci sono pochissime cose in cui si lascia la forchetta. Lei cosa ne pensa invece di questa, diciamo, tendenza evidente di quasi, diciamo, che i 10 più importanti chef italiani quasi tutti hanno dei piatti che si mangiano con le mani, e poi c'è anche la trattoria, diciamo, quella familiare, dove sicuramente gli affettati, il salame, il culatello soprattutto, si mangiano con le mani. E appunto, il Galateo cosa dice? Dunque, il Galateo sicuramente favorisce l'uso delle posate, che naturalmente ci rendono più eleganti nel gesto, più garbati anche a vedersi, quindi le posate andrebbero usate praticamente sempre. Ci sono però delle eccezioni che sono evidentemente imposte dall'uso e dalla ricerca del buon gusto stesso, nel caso appunto del piatto di cui parlavate, ma mi viene in mente un ristorante etnico come può essere un ristorante eritreo, dove il cibo necessariamente viene affrontato con le mani, altrimenti sarebbe come chiedere le posate, la forchetta e il coltello in un ristorante giapponese anziché le bacchette. È anche certo. Una questione di rispetto delle usanze, quindi fino a che si tratta di casi isolati o il piatto curioso, il piatto sfizioso che richiede l'uso delle mani, ben venga, però ecco, mi auspico che questo non significhi un ritorno alla barbarie medievale per cui tutto veniva affrontato con le mani. Ecco, vorrei ricordare a proposito di cucine etniche che il couscous viene proprio indicato anche dal Corano, si mangia con tre dita, si prende con tre dita, quindi ci sono delle consuetudini ben specifiche, specialmente su alcuni popoli. L'Italia, diciamo, visto che è un'italiana che ha introdotto la forchetta ed è Caterina de' Medici, sicuramente sono abituati a mangiare con le posate, abbiamo già sentito, diciamo, diversi interventi che alcuni piatti e alcuni gusti sicuramente si godono meglio toccati con le mani, perché il tatto, diciamo, è la prima forma di sensorialità, la prima forma di incontro appunto con il cibo. Ma volevo continuare ancora questo discorso, rimanete con noi che è già in linea con Maurizio Medaglia. Medaglia è un gastronauta, è un gourmet giramondo che sicuramente ci può dare un giudizio obiettivo, nel senso che è molto critico, anche molto critico su alcune avanguardie, e quindi voglio sentire da lui, ma questa tendenza di molti, diciamo, chef importanti a fare piatti che si mangiano con le mani, Maurizio, secondo te è una moda, una tendenza, oppure è un qualcosa di necessità per andare avanti sull'esplorazione del gusto? Sì, Davide, innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori. Entrambe le cose in quanto moda, ma la moda è sempre qualche cosa che ritorna, è un revenant, quindi è una sorta di fantasma della contemporaneità. Le mode vanno e vengono. Naturalmente anche questa, di nutrirsi, di portare il cibo alla bocca con le mani, ma non è solo questo, almeno io la penso così, in due parole. È un discorso molto complesso perché riguarda la complessità dell'umano. Viviamo, qualcuno dice, in pieno antropocene, effettivamente è così. In questo antropocene l'uomo è una stratificazione e nell'uomo c'è anche questo strato, quello che precede l'uomo agrourbano, come lo chiamo io, l'uomo agricoltore e urbanizzato, ovvero lo sappiamo ormai tutti, l'uomo nomade che raccoglieva e non coltivava i vegetali e cacciava e non allevava gli animali. Ecco, quell'uomo si era dotato di, e i paleontologi lo sanno, si era dotato di amigdale, di pietre da taglio, raschiatoie, eccetera, ma tutto il resto lo faceva con le mani. Poi è arrivato il fuoco e il fuoco ha imposto anche, causa calore, un distanziarsi delle mani dal cibo, quindi col cotto, come direbbe un antropologo, c'è anche questa presa di distanza. Quindi arriviamo a Lévi-Strauss, insomma. Arriviamo a Lévi-Strauss, si torna lì, ma cercando di ripensarlo con chiaramente i nuovi portati della paleontologia, della paleontologia naturalmente. Bene, rimani con noi. Torniamo a Paolo Lo Priore. Paolo, si è rifiutato qualcuno di mangiare di mangiare il piatto senza forchette, senza posate, il piatto che lei appunto offre di insalata di alghe, erbe aromatiche e radici? Sì, all'inizio c'è stata una difficoltà, ma credo che era più anche nostra, nel senso che come cosa nuova, perché poi ecco, se è un ritorno di una moda può essere una cosa nuova, però la nostra convinzione era forse non troppo determinata, adesso invece anzi quasi piace ancora di più, ma come anche i semi di zucca, dove viene fatta questa polvere e invitiamo il cliente a bagnarsi il dito, a pucciarlo dentro e poi a porgerlo sulla lingua, ecco, nel senso è un approccio con la cucina, trovo, un po' più disinvolto, ecco, dove non sempre l'impegno della posata è fondamentale. Ecco, mi viene da ripetere quello che prima ha dichiarato Massimiliano Laimo, che dopo aver assaggiato alcuni piatti una signorina ha chiesto che se, dice, praticamente gli sembrava di essere a casa, bastava che si togliesse le scarpe, poi aveva ricreato l'ambiente familiare. Vabbè, qui arriviamo sul galateo, proprio ai confini. Sabrina, volevo chiederle un'ultima cosa su questo. Il pollo, ci dice un po' il pollo, perché è molto discusso, alcuni dicono si può mangiare il petto, si deve mangiare il petto con posate, mentre la coscia e l'ala si possono mangiare con le mani. Dunque, no, la buona regola vorrebbe sempre comunque le posate per qualunque parte del pollo. Se pensiamo che le posate sono necessarie anche per i crostacei, che sono decisamente più difficili del pollo da maneggiare, questo per quanto riguarda le regole, come dire, più auliche del galateo. Poi, detto questo, ognuno deve, la cosa fondamentale è che si deve sentire a suo agio, per cui se per mangiare il pollo con le posate si rischia di fare come in Pretty Woman, per cui c'è la scena in cui lei mangia l'ostrica e l'ostrica viene lanciata. La lumaca. Sì. Allora è molto meglio usare le mani, certo, appunto, se si è in una trattoria familiare, per cui, come dire, certi modi sono anche accettati. Se si è in un ristorante di un certo livello, insomma, o peggio ancora, con commensali con cui si ha poca conoscenza, poca familiarità, sarebbe meglio utilizzare le posate. Questi ristoranti che ora sentiremo, abbiamo sentito, sono tutti ristoranti super stellati, quindi insomma sono ristoranti di un certo livello e a quanto pare, cioè, nessuno ha niente da obiettare, anzi si divertono. Bene, io ringrazio Sabrina Carollo, autrice del libro Galateo per tutte le occasioni, Paolo Lopriore, chef del ristorante Il Canto dell'Hotel La Certosa di Maggiano, e Maurizio Medaglia, gourmet ed esteta del cibo. Il gastronauta. Ecco, abbiamo sentito Zucchero che accarezza con le mani le cipolle e anche il gatto, magari non contemporaneamente, perché poi le cipolle magari non si può più mangiare. Però lo ripeto, questa trasmissione mette al bando la forchetta che introdusse Caterina de' Medici nella raffinata corte di Francia, però con la Chiesa la condannò Teodora, sposa del doce Domenico Selvo, perché nel matrimonio aveva usato la forchetta, e noi condanniamo la forchetta. Bene, è uno scherzo ovviamente, come ho detto prima, per parlare di mangiare con le mani, che è un fatto molto importante, soprattutto non tanto il mangiare con le mani, ma il tatto. E allora, siccome c'è un personaggio che sicuramente è stato uno dei primi così a introdurre, se vogliamo, nella sua cucina questo discorso della tattilità, ed è Davide Scabin del Combalzero, ora magari ne parliamo anche con lui. Buongiorno Davide. Buongiorno Davide, buongiorno agli ascoltatori. Allora, il tatto, Davide, è importante per noi, è il primo approccio. Ma il tatto in questo momento, dove direi che siamo un po' decadenti, ci riporta a quella fase primordiale, alla fase atavica che abbiamo dentro del contatto col cibo, e quindi ci riporta forse un po' a una parte emozionale. Abbiamo passato un momento dove era più importante l'esperienza, non per forza filtrata con le emozioni, ma che bisognava fare l'esperienza, quindi mettere un po' i bollini, no? Questo cielo manca. Adesso forse questa voglia di ritornare a un contatto diretto, tattile, forse anche una voglia nascosta del subconscio di voler ritornare a filtrare con delle emozioni primitive quello che siamo. Direi che questo è un po' quello che penso sul mangiare con le mani. Io credo che, sono sulla tua linea, credo che quando ci sono momenti, chiamiamoli così, di crisi, ora non vogliamo sempre usare questa parola perché ormai è usata ed abusata, però si torna sempre indietro, come anche si sta vedendo nella cucina, si sta tornando a prodotti e a ingredienti magari per un tempo dimenticati, le acciughe, il baccalà, la polenta, il bollito, così. Tornare indietro, come dici giustamente tu, dividendo un po' queste ere. Ecco, volevo chiederti appunto questo: se volessimo fare una distinzione nella storia della cucina, partendo dalla Nouvelle Cuisine, arrivando diciamo ai giorni nostri, si possono identificare dei sensi che hanno predominato? Ma fondamentalmente direi di sì, abbiamo dato magari più importanza alla vista, abbiamo lasciato che l'occhio prendesse forse una maggior parte in quello che era il filtro del nostro piacere, invece il tatto alla fine è poi quello che ci dà la consistenza, ci dà la prova diretta di quello che mettiamo in bocca, perché fondamentalmente l'apparato fisiologico per analizzare il gusto è la bocca, retrolfatto, la lingua, e invece abbiamo lasciato, negli ultimi tempi abbiamo lasciato che invece la preformazione del gusto mentale, quindi la vista, il primo senso che da lontano ci dà la prima immagine di quello che è il nostro piacere, prendesse un po' piede. Adesso si matura un po', si arriva a una consapevolezza diversa, dove l'apparire a volte deve cedere un po' il passo alla sostanza, e quindi il tatto sta ritornando di gran voga, direi. Sì, infatti anch'io io ho fatto questo abbinamento, che la Nouvelle Cuisine è il periodo che ha privilegiato l'occhio, poi c'è stato magari la Fusion che ha più privilegiato il gusto, e quindi ora si arriva al tatto. Questa è un po', diciamo, un'escalation che mi sono fatto nella mia testa, non so se tu condividi su questo. Ho seguito ultimamente, cioè quello del pollo ci riporta veramente un po' pesantemente coi piedi per terra, ci riporta a quello che è una nostra storia, a un nostro background di sensazioni, di emozioni, dove forse si ritorna un po' più umani di pancia, ecco, questo è quello. Certo. Davide, rimani con noi, perché abbiamo Claudio Tiranini, ed è lo chef del ristorante a Spurcacciuna dell'Hotel Mare di Savona. Credo che sia stato il primo in Italia tanti anni fa a introdurre un menù con le mani, interamente con le mani, avendo anche un altro menù a disposizione. Buongiorno Tiranini. Buongiorno, buongiorno. Senta, volevo chiederle questo. Innanzitutto, quali sono le reazioni, quali sono state in passato, perché ormai lei è noto per questo, dei clienti che arrivavano e si trovavano di fronte a questa realtà? Diciamo che la molla che ha fatto scattare questo pensiero, questo progetto, è stato proprio l'aspetto tattile, perché noi sappiamo che la fetta di salame mangiata con le mani è più buona di quella mangiata con le posate, ma a livello psicologico, cioè ti dà quel tatto, amplifica i sapori. E questo l'ho scoperto casualmente in Marocco, ma invitato a casa di arabi, mangiando il couscous con le mani, che per noi è una cosa difficilissima mangiare il couscous con le mani, perché loro lo mangiavano come se fossero delle patatine, cioè nel senso semplicemente, e ho scoperto che il couscous mangiato con le mani risultava sempre più buono di quello mangiato con le posate. Allora ho pensato che oltre all'aspetto visivo, olfattivo, gustativo, bisognava inserire un aspetto tattile nel menù, perché almeno era un senso che contribuiva a amplificare i sapori e a dare piacevolezza al palato. E da lì è nato il progetto del tavolo solo mani. Ecco, ci dà qualche piatto di questo menù? Ci dà un'indicazione? Diciamo che cambia secondo le stagioni. Certo. Ma a differenza di un finger, cioè nel senso, lì è proprio un pensiero, un menù studiato, cioè un tavolo, un high tech per fare in modo che la gente possa mangiare con le mani. Non dico che può mangiare gli spaghetti, però noi partiamo sempre con un menù di 7 portate, che c'è un piccolo entrée che potrebbe essere, adesso gli ultimi che abbiamo fatto sono del novellame, che sono dei piccoli pesciolini, sì, cardinetti, che noi chiamiamo in gergo spuncia corrente, in pastella fritti, serviti in una conchiglia con una salsa agrodolce, oppure si può mettere un po' piccante. Poi si può prendere due ricci crudi, che noi abbiamo l'isola di Bergeggi di fronte, dove possiamo avere questi ricci favolosi che muovono nel piatto, mentre si chiamano ricci in movimento, mentre che uno li mangia. E poi passare a un piccolo crudo che è composto da gamberi nostrani rossi, gamberi bianchi, scampi e due piccole tartare che variano secondo il pescato, può essere di ricciola e palamita, oppure di dentice e tonno, dipende. Ecco, volevo ricordare, l'ho detto prima, lei ha parlato del couscous, che addirittura il Corano prevede che il couscous debba essere mangiato con tre dita, da proprio l'indicazione. Esatto. L'indicazione. Bisogna ricordare anche che mangiare con le mani è un'usanza comune in molte parti del mondo. Io oggi ho preso in considerazione ovviamente, diciamo, il nostro territorio, in Medio Oriente, in Africa, in Asia. In India addirittura il popolo, cioè diciamo la gente è abituata a mangiare il pollice col pollice, l'indice e il medio, e quindi sicuramente c'è proprio delle indicazioni che vogliamo lì sono di Galateo, o addirittura le comunità musulmane che durante il periodo di ringraziamento devono mangiare solamente con la mano destra, quindi ci sono diciamo delle, come posso dire, dei Galatei che indicano appunto le mani, mangiare con le mani, una cosa diciamo raffinata. Bene, io voglio tornare un secondo a Scabin, perché ricordo di Scabin è stato diciamo il suo Martini, mi ricordo benissimo, si prendeva questa palla rotonda e si metteva in bocca. Eh sì, lì eravamo in un periodo diciamo dei cyberex, dove il contatto con le mani era fondamentale, perché non si poteva mangiare con le posate, era qualcosa che ti devi fare esplodere in bocca e lasciare a quello che ho descritto prima, l'apparato predisposto per la valutazione del gusto, la responsabilità di decidere se ti piacesse o non ti piacesse. Questo è quello che nel tempo è stato fatto, così nel pensare al piacere del cibo. Bisogna non dimenticare che qualsiasi azione di fame, di piacere, di ingordigia passa attraverso le mani. Quando abbiamo una fame così compulsiva, sì, ricordiamoci che cerchiamo veramente il contatto con le mani, non sicuramente non apparecchiamo la tavola, non mettiamo mise en place e argenti sul tavolo, ma aggrediamo il cibo con le mani. Questo è un altro aspetto da tenere in considerazione. Davide, c'hai nel tuo ultimo menù, hai un piatto, un qualcosa che si mangia con le mani? Ultimamente abbiamo questo, si chiama Empire State Peppers, che è una torre, una tower con sei piani, e dove i bocconi praticamente sono impossibili da mangiare con le posate, le devi prendere con le mani. Questo è l'ultimo che abbiamo a disposizione, così, di contatto tattile col food. Bene, grazie a Davide Scabin di Combal Zero di Rivoli. Torno a Claudio Tirannini per chiedergli, senta Claudio, voi avete due menù, un menù diciamo normale e un menù appunto con le mani. Qual è diciamo la percentuale che sceglie quello con le mani? Diciamo che sono, purtroppo sui tavoli sono solo due con le mani, perché sono tavoli progettati apposta con un'acqua corrente sul tavolo, tutto un sistema per infilare i bicchieri nei buchi, di modo che non ostruiscano l'accesso all'acqua, con l'asciugamano di fianco. E quel menù è molto creativo, perché ovviamente non ha vincoli, perché tu puoi sciacquarti le mani e poi asciugartele, e diciamo che sono molto richiesti sia i menù solo mani, più che io chiamerei un menù di food design, perché oltre a ritornare diciamo alle origini, cioè che le persone, i bambini mangiano con le mani, per cui hai questa sensazione proprio tattile piacevole. Io ho scoperto, dopo aver messo in atto questo progetto, che la gente, oltre all'aspetto tattile, per cui l'aspetto che era partito dalla mia mente, che il tatto amplifica i sapori, si è innescato l'aspetto ludico della tavola e l'aspetto socializzante della tavola, perché mangiando con le mani la gente ovviamente si apre nei confronti dell'altra persona e poi si diverte anche. E lì è forse un fattore che a mia sorpresa è venuto fuori. Beh, io credo veramente che la tavola deve essere un qualcosa di giocoso e di ludico, e quindi credo che sicuramente il mangiare con le mani porta a questo, come ci ha detto anche Massimiliano Laimo, porta sicuramente a un approccio diverso che deve essere, cioè c'è il cibo alimentazione, ma ci deve essere anche il cibo un'alimentazione che serve per divertirsi e non sicuramente per nutrirsi. Grazie a Claudio Tirannini. Il gastronauta. Bene, si potrebbe anche dire, contrordine dagli chef, mangiamo con le mani, anche così facendo un volo negli Stati Uniti, perché anche negli Stati Uniti c'è un libro che ha avuto grande successo di un cuoco che appunto ha scritto un volume dove ci sono delle ricette e appunto che si mangiano con le mani. Questo cuoco si chiama Zaccari Pelaccio. E comunque abbiamo visto che anche in Italia sono moltissimi ormai, diciamo, gli chef che vanno in questa direzione, almeno che hanno un piatto, quindi portano il tatto, la tattilità alla ribalta. Ebbene, fra questi c'è anche Enrico Crippa, che è chef del ristorante Piazza Duomo di Alba. Buongiorno Enrico. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bene, tu hai diversi nel tempo, hai presentato diverse proposte da mangiare con le mani. Ricordo i funghi fritti, se non erro, che si inzuppavano nelle salsine. Esattamente, sì, è una cosa che a me piace molto inserire nel percorso di un menù degustazione, che può essere creativo ma anche tradizionale, delle pietanze che per essere consumate devono essere introdotte in bocca solo e con l'utilizzo delle proprie mani. È un po' un ritorno indietro all'infanzia, perché poi noi il primo approccio che abbiamo col cibo l'abbiamo con le mani, quando siamo piccolini e le prime volte che da soli iniziamo a mangiare, lo facciamo solo ed esclusivamente con le mani. Tu addirittura, posso anche sbagliarmi, hai fatto dei dessert che si mangiano? Sì, ecco, un altro aspetto che mi piace molto è che nella nostra carta dei dolci ci sono sempre presenti o uno o due dessert che completamente si possono mangiare con le mani. Chiaramente sono dei dessert a base di sfoglie, di wafer, cialde di riso stese molto fini. Mi piace proprio il gesto di poi avere nelle mani questa cremosità di una crema di cioccolato o di una panna montata, e poi il togliere dal dito con la bocca quello che rimane e che ci si impiastra un po' giocando con il cibo nella parte dolce, no? È un po' anche qua un ritorno all'infanzia, che è una parte che mi piace, ecco. È quasi una metafora al dito nella marmellata, insomma, diciamo così. Ecco, ma la tattilità, cioè il discorso dell'approccio tattile sul cibo, quindi quello primordiale, iniziale, secondo te dà qualcosa di più? Cioè alla fine, quando uno, diciamo, lo ha toccato con le mani, poi lo ha messo in bocca? Sì, io credo che sia proprio un senso in più a tutto quello che a tutti i sensi che ci sono poi in un piatto: olfatto, vista, anche il solo fatto, facciamo l'esempio di uno dei miei dessert che è una sfoglia di riso affumicato riempita con una crema di nocciole e una crema di olio di nocciole. Questa cialda, quando viene presa in mano, intanto si sente la rugosità di questa sfoglia, poi la puoi spezzare, fai anche rumore, questa croccantezza la senti oltre con l'udito, la senti proprio anche nella vibrazione che hai nella mano quando la spacchi per portartela in bocca. È un amplificare ancora di più, entrare dentro alla ricetta, dentro al piatto ancora di più, secondo me. Anche per esempio una insalata composta da varie erbe, mangiandola con la mano, fogliolina per fogliolina, ciuffetto per ciuffetto, ci sono delle persistenze, dei sapori che vengono percepiti diversamente, se non magari l'insalata inforcata su una forchetta o con una pinza e via dicendo. Ci sono delle cose, è sottile la differenza, il corso, certo. È molto sottile, però per chi è più attento può ricercare delle cose divertenti, delle cose nuove. Rimani con noi, sentiamo anche Marco Stabile dell'Ora d'Aria di Firenze, chef dell'Ora d'Aria di Firenze. Buongiorno Marco. Ciao Davide. Anche tu fai dei percorsi sensoriali in cui introduci il tatto, se non erro. Assolutamente, è importantissimo per me. Ecco, raccontaci un po' cosa... Allora, innanzitutto, come penso ci sia questo influsso della mano del cuoco nel cucinare, alla fine ci sia anche nel mangiare, ognuno con la propria mano, no? quindi diciamo trasmettiamo la nostra energia attraverso il cibo e la riportiamo a noi stessi, no? Quindi per esempio una piccola tartare con sopra dell'aceto balsamico mangiato con le mani dà un'impressione totalmente diversa, no? C'è un po' del nostro, quindi è una carne cruda, ma ci mettiamo un po' di energia nostra, diventa già parte di noi. Poi bellissima la sensazione di mangiare una mini zuppa con il dito, quindi sentirlo con il proprio sapore, no? Quindi partire col tatto, sentire la temperatura, poi sentire la viscosità, poi portarlo in bocca e sentire il sapore, quindi insomma è un'esperienza che porta al 360 gradi di piatto. Alla sinestesia, quindi alla completezza della sensorialità. Devo dire che sicuramente ci sono tante critiche su questo e ne riceveremo anche su questa trasmissione che abbiamo per così dire promosso il mangiare con le mani, ma io faccio una notazione e credo che sia veritiera. C'è molta gente ovviamente che conosce tutte le regole del Galateo, che pubblicamente al ristorante usa forchetta e coltello, poi io vorrei vederle nel chiuso della loro casa, magari nella loro cucina. Cosa succede? Perché credo che l'istinto primordiale, come diceva prima anche Scabin, della fame è quello di toccare, di prendere con le mani. Ma Marco, volevo chiederti ancora, come reagisce? Ecco, anche a te come altri ho chiesto, come reagisce il cliente di fronte a questi percorsi? Scappa, non li vuole provare oppure è curioso? Ma guarda, è misto. Io sto avendo ora un'esperienza sul pranzo con un mini hamburger, no? Quindi che è molto facile, tra l'altro, prendere con le mani, schiacciare e mangiare. Molti, se glielo dici, si buttano e sono felici, vedi proprio un bel sorriso perché lì per lì si sentono un po', hanno un po' di vergogna, no, a farlo. Ma invece se glielo proponi, è la gioia più grande, no? Posso mangiare con le mani e nessuno mi dice niente. Molti invece, nonostante l'invito, li vedi che si rapportano ancora con coltello e forchetta su un panino, che insomma certo. È ancora più arduo e difficile alla fine, no? È chiaro. Bene, grazie Marco, grazie della tua testimonianza. Un'ultimissima cosa a Enrico. Enrico, hai un piatto che stai studiando, che metterai sul menù prossimamente, che si mangerà con le mani? Guarda, stiamo cercando, nel senso è già fatto, è già completo, dobbiamo solo veramente avere l'ultimo tocco di coraggio da parte di nostra. È un tiramisù fatto con una crema di mascarpone e olio di oliva e anziché il caffè per bagnare il biscotto, delle radici di cicoria tostate che poi portano al gusto molto vicino al caffè. Certo. E vorremmo chiamarlo, anziché siccome viene fatto tutto steso in un piatto, completamente steso, anziché tiralo su con le mani, solo un po' di coraggio e farlo capire, perché lì è completamente con il dito, come si diceva prima, nella marmellata. Bene, tiralo su con le mani. Bene, verremo sicuramente ad assaggiarlo, mi sembra sicuramente molto interessante. Devo dire che a proposito della cicoria, era il caffè di guerra, quindi sicuramente è una cosa molto interessante perché si avvicina al sapore del caffè. Bene, chiudiamo, non possiamo mangiare niente perché non abbiamo niente da mangiare con le mani, ma io credo appunto che molti diranno: bah, pensa a te cosa vanno a tirar fuori questa volta di mangiare con le mani. Ebbene sì, e avete sentito che in moltissimi ristoranti, appunto molto importanti, bene o male ci sono uno o due piatti che si mangiano in questa maniera. Ovviamente chi vuole può scegliere di mangiare con coltello e forchetta e magari a casa poi di fare quello che vuole, ovviamente. Vi saluta il vostro gastronauta, vi dà appuntamento domani alle 11.15 con il riposo del guerriero e ogni giorno con la pillola delle 11.05, 23.05. Buon appetito a tutti!